si dissolvono e lentamente scivolano via. Indossi un'effimera maschera, riparo dalle tue emozioni. Quando il sorriso è un obbligo, tiri fuori il vestito migliore. Hai sprecato le lacrime sulla curva del destino, alla ricerca della chiave, un meccanismo retroattivo. Seduto col cappellaio matto, i frammenti del divino non tornano più. Quanto è fredda questa libertà, che un cappotto non basta mai, in catene in un limbo da uno sguardo seducente. Ho nascosto le fragilità in un mondo parallelo, ho nascosto le fragilità in un mondo parallelo. Alla ricerca di un metodo di interazione sociale, ti agiti in un